Quella che state per ascoltare è la registrazione dell'assemblea pubblica fatta dai Secobas di Prato il 16 luglio di quest'anno davanti al Panificio Toscano, in cui è in corso una vertenza. Buon ascolto. Vedere tante persone a quest'assemblea pubblica. Come è già stato detto, questa assemblea la facciamo qui al Panificio, a questo presidio permanente che va avanti da una settimana. Da una settimana stiamo dormendo qui davanti ai cancelli per rendere chiaro che non ci fermeremo finché non verrà aperta una trattativa, finché non ci saranno date delle risposte a delle richieste che vengono fatte ormai da un anno. Noi pensiamo sia molto importante dare sostegno a questi lavoratori, non solo i lavoratori del Panificio Toscano, ma i lavoratori che in questi mesi hanno deciso di sindacalizzarsi, hanno deciso di lottare contro il sistema di sfruttamento che c'è nel territorio pratese, che purtroppo è molto conosciuto. Pensiamo che sia molto importante per far capire che non è una lotta sola, solo dei lavoratori, degli operai che stanno tutti i giorni in quelle fabbriche, ma una lotta di tutta la città, una lotta che deve guardare alla regolarizzazione di questo settore lavorativo, del mondo del lavoro di Prato, una lotta per una città che possa vedere un cambiamento da questo punto di vista. Per cui, lo ripeto, per noi è veramente importante stringersi davanti a persone che hanno deciso di fare una scelta rischiosa, che rischiano il loro posto di lavoro, che rischiano le botte davanti ai cancelli, che rischiano di perdere un lavoro che sappiamo tutti che non è facile trovare, ma che hanno deciso comunque di fare una scelta coraggiosa di dire basta allo sfruttamento, dire basta al fatto che le aziende si approfittano anche del fatto che alcuni lavoratori non conoscono le regole, non conoscono i loro diritti, per cui pensano di poterli trattare a pesci in faccia, di poterli trattare come schiavi. Queste persone hanno deciso di mettersi in moto, di iniziare a lottare, di chiedere quello che è un loro diritto, semplicemente le applicazioni dei contratti nazionali. Hanno deciso di dire basta e di non essere più, di non subire più questo sistema di sfruttamento. Pensiamo che sia importante anche sostenere questi lavoratori perché vediamo che nella città di Prato la questura non ha, diciamo, in simpatia le lotte che si stanno muovendo in questa città, non ha una risposta sicuramente positiva dal momento in cui si accanisce contro questi lavoratori, continua a intervenire violentemente per sciogliere gli scioperi, per sciogliere i presidi che ci sono davanti alle ditte, per evitare che si portino avanti gli scioperi in queste aziende. Noi ci stupisce molto questo comportamento perché sappiamo quanto è importante che i lavoratori si sindacalizzino, quanto è importante che i lavoratori denuncino, come tanti in questa città ripetono. E quindi non capiamo perché ci deve essere un accanimento nei confronti di queste persone, non solo di violenza fisica, verbale, ma anche con denunce, persone portate in questura, non solo i sindacalisti, ma anche molti lavoratori. Molto spesso sono portati in questura per cercare di fargli paura, per fargli capire che non è il modo giusto di fare le cose. Ma noi sappiamo che le vittorie che abbiamo avuto, che è un modo efficace, che abbiamo avuto delle vittorie, e questo i lavoratori lo sanno. Per cui noi continuiamo a chiedere il perché c'è questa reazione nei nostri confronti, il perché la città e la questura in particolare deve avere questo comportamento di repressione nei nostri confronti e delle lotte dei lavoratori. E per questo ancora pensiamo sia importante che la politica anche prenda parola su quello che sta accadendo, perché non è un qualcosa, lo ripeto, che riguarda solamente gli operai, ma riguarda tutta la città di Prato, come ben sappiamo. Noi siamo qui al Panificio Toscano, ma diciamo siamo arrivati agli onori della cronaca per le nostre lotte nel settore tessile. A partire da, diciamo, la primavera, in alcune aziende abbiamo cominciato a ottenere grandi vittorie. Il nostro percorso non è iniziato questa primavera, è iniziato l'autunno scorso, in cui pochi lavoratori hanno deciso di venire al nostro sindacato, di denunciare condizioni di lavoro schiavistiche, 12 ore al giorno, 7 giorni a settimana, senza nessun tipo di diritto, senza contratto. Sono venute al nostro sindacato e noi abbiamo iniziato con loro, persone che purtroppo spesso hanno perso il posto di lavoro, non sono riuscite a vincere, oppure hanno ottenuto quello che chiedevamo, ma poi col tempo, con lettere disciplinari, con la fine dei contratti, sono state lasciate a casa. Quei lavoratori sapevano che era un rischio, lo sapevano che sarebbe potuto andare così, ma hanno comunque deciso di affrontare questa lotta. Noi abbiamo iniziato alla tintoria di L. Sinceramente, quando abbiamo iniziato, nemmeno noi ci credevamo. Sono venute, quante persone? 25, 30 persone, di un'azienda molto grande, un'azienda anche famosa, parlandoci del fatto che metà di loro non avevano contratti. E noi pensavamo, come si fa a fare una lotta sindacale con persone che non hanno nemmeno un contratto? Per cui non esistono sostanzialmente a livello legale all'interno dell'azienda. Ma abbiamo deciso di provarci lo stesso, abbiamo deciso di andare avanti perché non avevamo scelta, perché a quelle persone che venivano a denunciare quella situazione di sfruttamento non potevamo dire che non era possibile, non potevamo dirgli che non avevamo speranze. Gli abbiamo detto sarà difficile, probabilmente perderemo il posto di lavoro, sarà molto difficile, queste lotte non, a Prato tutti pensano che non possa cambiare niente, che è impossibile far cambiare questo sistema. Ne abbiamo parlato insieme, le abbiamo detto chiaro, ma i lavoratori hanno detto che comunque sarebbero voluti andare avanti perché non c'era modo di continuare a lavorare come si lavorava prima. Ma abbiamo visto come quella vittoria ci ha dato una speranza, io penso che l'abbia data a tutta la città, quella piccola grande vittoria ci ha dato la speranza di poter veramente cambiare, di vedere una possibilità di cambiamento in questa città, la possibilità che il settore tessile in questa città sia un settore regolare, dove si lavora 8 ore al giorno, dove vengono applicati i contratti nazionali. Sembra un po' strano fare questi discorsi nel 2019, perché stiamo chiedendo la base, stiamo chiedendo quello che è stato ottenuto molti anni fa da lavoratori molto simili a quelli che ci sono oggi, forse col colore della pelle diverso, ma gli stessi lavoratori italiani anni fa hanno fatto queste lotte con queste pratiche anche molto più dure per riuscire ad arrivare ai contratti nazionali che abbiamo oggi, contratti nazionali che oggi stiamo chiedendo di applicare. Sembra una lotta un po' ottocentesca, ma purtroppo non lo è, purtroppo è la realtà di oggi di Prato e non solo, è la realtà di un mondo del lavoro in cui i contratti nazionali esistono ma diventano carta straccia dal momento in cui i lavoratori sono soli davanti al loro datore di lavoro, sono sotto ricatto e pensano di non avere nessuna possibilità. Noi pensiamo che questi lavoratori che sono messi in gioco in questi mesi questa possibilità la stiano dando, stanno aprendo la strada a tanti altri lavoratori. Noi sappiamo che in questi mesi ci sono stati dei cambiamenti non solo nelle tintorie dove noi abbiamo fatto una lotta, ma anche fuori, sono stati alzati i salari per paura di una sindacalizzazione dei lavoratori. Noi certo vogliamo che più persone possibili comincino a lottare, che capiscano i loro diritti, ma già questo ci sembra una grande conquista, che costringiamo i datori di lavoro a alzare i salari, a ridurre le ore, per paura del fatto che i lavoratori si organizzino e che decidano di lottare per i loro diritti. Diciamo che è una lotta difficile per cercare di portare la legalità in una parte di questo settore. Come abbiamo visto, però, purtroppo la risposta che c'è stata alla tintoria, alle battaglie che abbiamo fatto alla tintoria di L, è stato un foglio di via a me e a Luca Toscano, un'ordinanza che ci vieta di stare sul territorio pratese. additandoci come pericolosi, come un pericolo per la città, come socialmente pericolosi. Ovviamente ci sembra quasi ironico, ci sarebbe da ridere se non fosse la realtà, che delle persone che si mettono in moto per riportare la legalità in questa città vengono additate di essere pericolose e vengono cacciate dalla città. Non è stata la prima volta, certo, che hanno provato a fare questo. Come sappiamo, a gennaio c'era già stata una richiesta di misure cautelari nei nostri confronti, di obbligo di dimora a Firenze, ma che è stata rigettata più e più volte, sia a Prato, dal GIP di Prato 3 volte, ma la questura ci ha riprovato ancora chiedendo al Tribunale di Firenze di pronunciarsi. Dopo 2 mesi il Tribunale non aveva dato alcuna risposta, al che il PM ha deciso, forse intelligentemente, di ritirare la sua richiesta di misure cautelari. Forse perché si è reso conto che era qualcosa un po', diciamo, pazzesca, chiedere misure cautelari per dei sindacalisti. Questo foglio di via ci è stato dato appunto quando abbiamo iniziato la tintoria di L. Noi abbiamo proposto le nostre memorie, abbiamo spiegato che noi non possiamo non stare a Prato. Noi facciamo attività sindacale anche in altre zone della città, scusate, della provincia e della provincia di Firenze. Ma non potevamo certo abbandonare tutti i lavoratori che hanno deciso di iscriversi, di portare avanti delle lotte. Per cui, dal momento in cui la questura prima ci ha chiesto di comunicare i nostri orari, e noi l'abbiamo fatto, ma ancora ci ha fatto un'altra ordinanza chiedendo di spiegare ogni giorno in che posto ci trovavamo. E per noi questo è inaccettabile. È inaccettabile che la questura e, diciamo, le forze di polizia pretendano di controllare l'attività sindacale, pretendano di sapere dei sindacalisti dove si trovano, in che momento, da che ora a che ora. Questo è il tentativo di mettere sotto controllo l'attività sindacale in una città, e noi pensiamo che questo sia veramente molto pericoloso, non solo per Prato, non solo per i lavoratori, ma in generale per lo stato di salute democratica che è in una città, in cui se la polizia vuole controllare il sindacato, di nuovo, non ci sembra di essere nel 2019, ma ci sembra di essere in un periodo in cui i sindacati non erano liberi, non potevano esercitare la loro attività se non era concesso dallo Stato. Per cui noi riteniamo questo provvedimento inaccettabile e abbiamo deciso di violarlo. Abbiamo deciso che ci voleva un atto di disobbedienza civile nei confronti di una norma che va a violare appunto le libertà democratiche. Per cui io e Luca abbiamo deciso di tornare a Prato tutti i giorni. In questa settimana siamo qui 24 ore, dormiamo qui davanti ai cancelli, di esserci sempre e far capire che per noi è qualcosa di inaccettabile. Su questo noi abbiamo portato anche il ricorso al TAR, che ci sarà la prossima settimana, ci sarà l'udienza il 25 luglio e avremo una risposta sulla legittimità o meno di questo provvedimento. Oggi siamo al Panificio Toscano. Per noi è stato importante venire qui anche perché tutti potessero vedere il panificio, lo vedete lì? Un panificio che si definisce artigianale. Noi pensiamo sia importante vederlo anche per rendersi conto della struttura, che non ci sembra un forno, non ci sembra un forno con un negozio, ma ci sembra una fabbrica in una zona industriale dove ci sono le fabbriche. Ma ovviamente siamo venuti qui anche per parlare di quello che sta succedendo al panificio. Come abbiamo visto, dopo la nostra lotta superlativa, che ha visto la polizia aggredirci fisicamente e verbalmente davanti ai cancelli di superlativa, dicendo che non si poteva fare, che non si poteva stare davanti ai cancelli, e poi abbiamo visto come l'ispettorato del lavoro ci ha dato ragione, abbiamo visto come mentre noi eravamo fuori ai cancelli e la polizia ci manganellava c'erano altri lavoratori a nero lì dentro, e come la polizia si preoccupa di aggredire chi è fuori a scioperare, non di controllare i datori di lavoro e se ci sono, se le regole vengono rispettate all'interno di quelle aziende. E ancora il panificio toscano, siamo venuti domenica sera, ci hanno aggrediti, ci hanno trascinato per terra, ci hanno schiacciati lì dove c'è il gazebo adesso. Tutti hanno visto i video dove un lavoratore veniva picchiato mentre era per terra e dopo veniva pure portato in questura e denunciato per lesioni. Noi quelle lesioni le vogliamo vedere. Vogliamo vedere come una persona stesa a terra e che prende i pugni in testa può lesionare i poliziotti. Per noi quello che è successo è veramente grave, non è la prima volta. Già l'estate scorsa molto spesso siamo venuti fuori ai cancelli e ci hanno picchiato, ma questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il panificio non è un'azienda a conduzione cinese, il panificio toscano è italianissimo e diciamo è tra quelle aziende, tra l'imprenditoria sana, che definiamo sana nel nostro territorio, tra quelle aziende fornitrici COP, che si vantano di rispettare i diritti dei lavoratori, si vantano, la COP si vanta di avere un codice etico, di controllare i propri fornitori, di far sì che tutte le regole vengano rispettate. Noi ci chiediamo com'è possibile che le regole vengano rispettate in un'azienda in cui persone, operai specializzati, che fanno un lavoro specializzato da 10-15 anni, prendano 5,50 euro l'ora. Io non voglio dilungarmi nella specificità dei livelli, degli inquadramenti, del contratto nazionale, il contratto artigianale, industriale, perché tante cose le sappiamo, le leggiamo sui giornali, ma la realtà dei fatti è questa, che delle persone arrivano a decidere di non andare più al lavoro, di entrare in sciopero permanente. Queste persone da una settimana non lavorano e stanno dormendo qui fuori perché hanno deciso che la misura è colma e che non si può più aspettare. Abbiamo aspettato per 6 mesi, 7 mesi dopo Natale. C'era stato detto, c'era stato promesso che avremmo iniziato una trattativa, che avremmo fatto degli incontri insieme al panificio. Ci è stato detto chiudete lo stato di agitazione e noi inizieremo un percorso di confronto su quelle che sono le vostre rivendicazioni. E noi abbiamo accettato. E in questi mesi abbiamo chiesto di essere incontrati, di aprire un tavolo, di parlare di quelle che erano le rivendicazioni di questi lavoratori che non vogliono essere ascoltate da nessuno, di parlare di quelle che erano le condizioni di lavoro. L'abbiamo chiesto più volte e c'è sempre stata sbattuta la porta in faccia. C'è stato, gli incontri sono stati procrastinati, poi c'è stato risposto che non eravamo le sigle sindacali con cui bisognava parlare. C'è stato raccontato che c'era già un percorso che era in avviamento e che quindi quelle promesse che erano state fatte a quel tavolo in prefettura diventavano di nuovo bugie, carta straccia, prese in giro. E non a noi, non al Sicobas, ma ai lavoratori che tutti i giorni stanno dentro questo panificio. Questo percorso di valutazione dei livelli si è concluso a giugno e noi abbiamo riaperto lo stato di agitazione, abbiamo aspettato che il percorso si concludesse, che si è concluso con 30 cambiamenti di livello su 140 persone, dall'ultimo al penultimo livello di inquadramento. Ma non siamo stati noi che abbiamo detto questo è inaccettabile, sono stati i lavoratori stessi che già da tempo dicevano che avremmo dovuto ricominciare la mobilitazione. Ma ci è stato detto aspettiamo, guardiamo. Noi abbiamo aspettato, ma poi a un certo punto abbiamo deciso che non si poteva più andare avanti. In questi mesi, come abbiamo chiesto al panificio, abbiamo chiesto alla COP di incontrarci. Abbiamo chiesto che la COP venisse a sentire quali erano le ragioni di queste persone. Che si chiedesse perché delle persone da un anno hanno una vertenza aperta in questo posto, che le ascoltasse semplicemente, che capisse quali erano i problemi. Ma ci sono sempre state sbattute le porte in faccia. noi siamo tornati anche davanti alla COP, sostenendo che è anche una loro responsabilità. Non è un qualcosa di cui si possono lavare le mani, non è qualcosa davanti a cui ci si può girare dall'altra parte. Noi in questo momento è in corso il tavolo in prefettura, che purtroppo per problemi tecnici è stato spostato più avanti, per cui probabilmente durante l'assemblea torneranno a raccontarci e aggiornarci su come è andato questo tavolo in prefettura. Un tavolo che, ripeto, è la prima volta in cui incontriamo il panificio toscano dopo Natale. Vedremo come sarà andato questo tavolo. Noi sinceramente siamo fiduciosi che anche che la CGIL e che la UIL, che sono presenti a questo tavolo, possano aprirsi alle rivendicazioni di questi lavoratori. Per cui aspettiamo il loro ritorno per avere aggiornamenti su come sarà andato il tavolo e per capire come andrà avanti anche il presidio permanente. Noi, rispetto a quello che è l'atteggiamento della COP, vogliamo proporre, nel caso non si risolva oggi la situazione, di una giornata, diciamo, di mobilitazione, una giornata di presa di parola su quello che sta succedendo alla COP questo sabato. Per cui chiediamo alle persone che sono qui presenti di organizzare dei volantinaggi, dei sit-in per andare davanti alle COP e chiedere che la COP intervenga, far capire alla COP che questi lavoratori non sono soli, che non sono solo i lavoratori di questo panificio a chiedere che le cose cambino, a chiedere una loro presa di posizione. È anche la cittadinanza di questa città che vuole avere chiarezza su quello che sta succedendo. Io vi ringrazio ancora una volta per essere venuti e ripeto l'invito a chi volesse intervenire di segnarsi, e lascio la parola. Tommaso Fattori, consigliere regionale Sì Toscana Sinistra. Grazie della parola. Intanto vorrei dire che sono qui e siamo qui prima di tutto perché i lavoratori che lottano contro lo sfruttamento non devono essere lasciati soli, e perché i sindacalisti che organizzano i lavoratori che lottano contro lo sfruttamento non devono essere lasciati soli, a maggior ragione se si tratta di persone come Sara e come Luca, che sono state messe al confino. Perché questo ovviamente è accaduto con il foglio di via obbligatorio di cui sono state vittime e che ricorda appunto misure di prevenzione di epoche buie della nostra storia. Diceva Sara adesso che le vittorie alle tintorie DL e poi alla tintoria Fada, che tra l'altro sono state conseguenti, perché non l'ha ricordato per motivi di tempo, ma prima c'è stata la vittoria alla tintoria DL, poi è seguito quella alla tintoria Fada, ma nel frattempo c'è stata una lotta lunga e complicata, perché diceva questo ha suscitato la speranza. Il problema è che non ha solo suscitato la speranza, ha suscitato anche la paura di chi capisce che attraverso la sindacalizzazione si ottengono delle vittorie, e quindi la paura che quel tipo di lotta diffondesse nell'area pratese appunto le rivendicazioni, portando poi a conquiste di tipo salariale, di tipo contrattuale. Quindi è di questo che stiamo parlando, cioè del fatto che vi sono da una parte ovviamente la speranza legata alla riorganizzazione, ma dall'altra anche la risposta degli altri. Allora qui io lo dico, l'abbiamo detto in un atto portato in consiglio regionale, ma lo ripeto anche qui: la prefettura e la questura si occupino di contrastare l'illegalità, si occupino di contrastare lo sfruttamento della manodopera, si occupino di contrastare il lavoro nero, si occupino di contrastare l'evasione contrattuale e l'evasione fiscale, che poi, come sapete, significa togliere soldi ai servizi di tutti, agli ospedali, alle scuole, al trasporto pubblico. di questo si occupino e non di manganellare gli operai che stanno lottando per i loro diritti e non di mettere al confino i sindacalisti che li stanno aiutando. Questo è il punto. E la pericolosità sociale, perché di questo si sta parlando, davvero la pericolosità sociale è di chi contrasta l'illegalità, di chi cerca di far ottenere diritti alle persone. Davvero l'attività sindacale dobbiamo tornare a pensare che sia una questione appunto da codice penale? Questo è, diciamo, la prospettiva che abbiamo davanti. Allora io lo dico in maniera molto chiara: lo sfruttamento del lavoro è una tendenza naturale, purtroppo, del mercato capitalistico. Il punto è che ci sono dei rapporti di forza e che quindi questa tendenza naturale la si può cercare di contrastare attraverso l'organizzazione, attraverso quel diritto del lavoro che è stato smontato negli ultimi decenni dalle politiche dei centrodestra e dei centrosinistra, che queste si sono molto assomigliate, attraverso l'auto-organizzazione sindacale. Giustamente diceva Sara, sembra di essere tornati all'Ottocento, non solo per i livelli di sfruttamento ma anche per i livelli di repressione, ed è esattamente questo il punto. Noi abbiamo ormai delle sacche ottocentesche di regressione all'interno della nostra Toscana, all'interno di tante realtà produttive, e quindi il tema è come controbilanciare questo rapporto asimmetrico fra, diciamo, in termini classici, lavoro e capitale, fra quello che noi siamo qua oggi da un lato e gli interessi contrastanti dall'altra parte. E questo rapporto di forza si è ovviamente nel corso del tempo sbilanciato completamente da un lato e non dall'altro. Io penso che lo sappiate, ma in Toscana le realtà di sfruttamento di questo tipo sono ovunque. Il caporalato, un tempo si diceva caporalato una questione del sud, ormai non c'è più differenza, centro, nord e sud hanno fenomeni caporalato, dal settore del tessile pratese fino ad arrivare all'agricoltura, dove sapete sono messi a lavorare al nero anche profughi e richiedenti asilo. Abbiamo situazioni di appalti e di subappalti nella nostra regione in tanti settori, a partire dal porto, dai portuali fino alla logistica, con situazioni incredibili. Chiamate a SMS, nessun contratto, nessun diritto, nessuna ferie, nessuna malattia, cioè livelli paurosi di sfruttamento che mettono anche a rischio la sicurezza stessa dei lavoratori, perché poi è facile stracciarsi le vesti quando qualcuno ci lascia la pelle, ma il problema è che anche la sicurezza è messa a rischio, ed è messa a rischio ovunque. Giustamente dicevate, questo è, diciamo, non è un'azienda come le tintorie tenute da imprenditori cinesi, è un'azienda italianissima. Qui vedo dietro di me c'è Luciano dell'USB di Publiacqua, dove è stata licenziata adesso una lavoratrice perché ha denunciato i problemi di sicurezza sul lavoro all'interno di Publiacqua, ha usato le parole dure in un suo post verso l'amministratore delegato ed è stata buttata fuori. Un'azienda in teoria mista pubblico-privato. Questo è il quadro, diciamo, che abbiamo complessivamente davanti. E vado verso la fine perché non voglio prendere troppo tempo, però il punto è proprio questo: riuscire a vedere le connessioni fra questi elementi del puzzle, unirci e superare la frammentazione. L'organizzazione sindacale di fatto è esattamente questo. Quel fenomeno di contaminazione positiva delle tintorie, delle lotte vittoriose a DL e FADA deve arrivare in tanti altri pezzi dei nostri settori produttivi. Quello che è successo rispetto al panificio toscano è stato detto molto meglio di me. Io su questo non è che mi voglio dilungare, ma è incredibile che ci siano situazioni di sottoinquadramento come quelle, che ci siano persone specializzate che lavorano da anni facendo appunto, operando in mansioni specializzate, che hanno appunto salario di 5,50 euro nette l'ora, ed è incredibile essere presi in giro e pensare che questo colosso qua, che è una panificazione evidentemente di tipo industriale, possa essere spacciata per una panificazione artigianale come quella del contadino che si mette, apre il piccolo forno dove impasta e ti vende il pane e che rifornisce Coop. Ed è stato detto giustamente qui che bisogna richiamare tutti alle loro responsabilità, a partire da Coop, che è la principale committente di panificio toscano. Coop non può stare fuori da quel tavolo. COP deve stare dentro quel tavolo, perché anche COP ha un codice etico, anche Publiacqua avrebbe un codice etico per l'appunto sulla sicurezza del lavoro, salvo poi licenziare le persone. Questi codici etici stanno lì come parole scritte al vento che poi vengono stracciate. Quindi uniamoci, io porto non solo la solidarietà ovviamente del gruppo, ma di tutta la nostra rete regionale. Siamo a dire che dentro il Consiglio stesso la lotta vostra sarà portata dentro il Consiglio regionale. Noi porteremo non solo la solidarietà, ma come abbiamo già fatto con Fada, con una mozione sul tema Fada, porteremo il tema del panificio toscano, perché è il momento in cui tutti devono dire da che parte stare e anche le istituzioni devono dire da che parte stare, se dalla parte di chi sfrutta o dalla parte di chi è sfruttato, e chiede elementari diritti, chiede un contratto nazionale giusto, chiede di essere retribuito per il lavoro che fa. Noi abbiamo scelto e stiamo dalla parte dei vostri diritti. Lorenzo, Potere al Popolo, Firenze. Ah sì, dopo si prepara Dario, RSU della GKN. Ciao a tutti, ma io non mi dilungo tanto perché sia Sara sia Tommaso hanno detto praticamente tutto quello che c'è da dire su quello che è questa vertenza, ma su quello che è comunque lo stato delle relazioni sindacali, delle condizioni di lavoro, della repressione che c'è su chi lotta e su chi tenta di organizzarsi su posti di lavoro. Io semplicemente vorrei rivolgermi a tutte quelle persone solidali, a quelle strutture che sono venute qua a portare solidarietà a quella che è una lotta giusta e sacrosanta. Perché, come dicevano bene prima i compagni, dall'altra parte della barricata non c'è solo un'azienda di panificazione, un'industria, ma c'è anche chi tiene in mano la catena della filiera, che chiaramente è COP, perché se è COP che decide il prezzo del pane che viene acquistato da questa industria, è chiaro che è COP in qualche modo che decide anche i livelli di sfruttamento che vengono imposti qua dentro con i metodi che abbiamo, di cui abbiamo parlato e che abbiamo sentito prima. Quindi dal nostro punto di vista la prima cosa che dobbiamo fare è provare a coinvolgere sia i lavoratori, sia i soci, sia i clienti di COP, andando con i nostri corpi, con volantini. Noi ne avremmo anche già preparato uno e siamo pronti nel giro di 24 ore a intervenire, nel caso andare fuori dai negozi COP, ricordando che Unicop Firenze, che è quella che compra il pane da loro, non è solo a Firenze o a Prato, ma va da Siena fino a Viareggio, quindi si possono attivare veramente compagni sul mezzo territorio toscano, e l'invito è a tutti coloro che sono qua di intervenire, di far sì che questi compagni vadano con un volantino molto semplice a parlare con i lavoratori COP, perché quello che sta succedendo oggi a Prato, grazie ai compagni del Secobas che si sono buttati nella mischia e sono riusciti a tirare fuori un po' di conflitto in questa città che era famosa per il lavoro nero, per illegalità eccetera, penso che sia un esempio non solo per chi in questo momento sta lottando, non solo per il settore tessile, per quello delle tintorie, per quello per panificio toscano, per questa piccola filiera, ma per tanti altri lavoratori che in Toscana invece da tempo sono abituati a tenere la testa bassa, perché io penso che veramente qua in pochi possiamo dire che sul nostro posto di lavoro abbiamo rispettato tutti il contratto nazionale, godiamo di tutti i diritti e l'inquadramento giusto eccetera. Io personalmente non ho mai visto un contratto a tempo indeterminato in vita mia, non ho mai visto un inquadramento giusto in vita mia, non ho mai visto quello che mi spettava, non dico a livello morale, dico per legge. Ecco, da questo punto di vista quindi penso che questa lotta possa parlare a tanti, e il fatto di andare fuori dai negozi COP è anche un'occasione che ci offre questa avvertenza per parlare con tanti lavoratori e lavoratrici. L'altra cosa che secondo me si potrebbe fare è quella di provare un pochino a smuovere quelli che sono le controparti sindacali, chiaramente non parlo del Secobas, parlo soprattutto della UIL e della CGIL in particolare, che su questo territorio, soprattutto la CGIL, ci hanno una diciamo visibilità e un potere politico enorme, fanno parte comunque di una storia, e in questo caso ci sembra che stiano facendo molto poco, se non addirittura parlo dei vertici nazionali della categoria dell'industria alimentare, che sono intervenuti a gamba tesa in questa vertenza, di fatto dando ragione all'azienda. Sappiamo che dentro la CGIL questa non è assolutamente la la linea e la sensibilità maggioritaria. Ci sono tantissimi, anche qua ci sono dei compagni che si sono schierati fin dal primo momento con questa lotta. Penso che sia però il caso che queste voci dal sindacato emergono in maniera più forte e con comunicati, con striscioni, con tutto quello che si può fare, perché tutto quello che in qualche modo sposta a sinistra, sposta verso le lotte e la solidarietà verso questa vertenza all'interno della CGIL rende molto più difficile poi prese di posizione come quella che è stata fatta l'altro giorno a mezzo stampa da, e non solo, dalla UIL e dalla CGIL, e di fatto danno ragione a Panificio Toscano dicendo che sarà la contrattazione nazionale a occuparsi del fatto se questa qui è un'industria è un'azienda artigiana o una industria. Cioè si vede chiaramente che è un'industria, e poi c'è già una legge regionale che regola questi aspetti, per cui non si capisce perché devono essere loro a decidere insieme a Panificio Toscano. Detto questo, quindi parteciperemo sicuramente a questi volantinaggi, a questa giornata di lotta, attiveremo quelli che sono i nostri nodi locali da qui fino a Viareggio per cercare di rompere le scatole quanto più possibile a Coop. Chiediamo anche qui pubblicamente che i lavoratori, i delegati, gli iscritti CGIL si esprimano chiedendo al loro sindacato una presa di posizione in solidarietà a questa lotta senza se e senza ma e nulla, e poi semplicemente cerchiamo tutti quanti di dare quanta più visibilità possibile. Per il resto, piena solidarietà e avanti così, noi ci siamo. Ah sì, se ci sono, penso che ai compagni serva anche del tempo, almeno io ho capito che c'è anche bisogno, immagino, di liquidità, di soldi, o comunque immagino che se per caso partirà un crowdfunding, una cassa di resistenza, penso che tutti siamo pronti a mettere le mani al portafoglio, insomma. Grazie. Allora, Dario, RSU della GKN, si prepara Hussein, delegato Sicobas SDA. Sì, sono un RSU Piom della GKN, che per chi non la conoscesse è l'azienda di fianco ai Gigli che produce semiassi principalmente per Fiat. E vi porto naturalmente la solidarietà di tutta l'RSU e anche dei colleghi e del collettivo di fabbrica. Un ringraziamento e delle scuse perché abbiamo seguito le vicende che il Sicobas a Prato ha avuto e che i lavoratori che si sono mobilitati in un percorso di mesi in diverse aziende hanno avuto, l'abbiamo seguito e non siamo mai riusciti fattivamente a fermarci un attimo nella nostra vertenza interna per portarvi solidarietà di fronte ai cancelli e di fronte ai picchetti. Purtroppo una delle cose che i padroni sanno fare molto bene è attaccarti continuamente e non lasciarti nemmeno un minimo di ossigeno per ragionare. E un ringraziamento per quello che state facendo, su cui vorrei essere chiaro. Noi non consideriamo né questa mobilitazione né le altre che sono scoppiate nel settore tessile come sacche di arretratezza o di illegalità dove ancora non è stata fatta chiarezza. Per noi questo è il mercato, questo è il capitalismo, questo è il sistema Prato, e non è un sistema di arretratezza ma è il sistema di avanguardia, più avanguardia che c'è, che funziona e funzionava perfettamente dal loro punto di vista, perché è riuscito fino ad oggi a comprimere i diritti, a dividere su basi etniche, razziali, chiamatele come volete, a presentare perfino gli scontri che ci sono stati finora come un problema cinesi contro stranieri, stranieri contro italiani, e penso ci sia stato anche del perbenismo in diverse forze politiche sindacali ad appoggiare fino a che queste lotte sembravano aprire, come dire, tirare su la pentola sul problema delle aziende cinesi, quando in realtà tutto questo è un sistema dove non abbiamo assistito a le aziende avanzate, la mitica Coop contro le sacche di illegalità o l'imprenditore cattivo cinese contro l'imprenditore italiano. Questo sistema è un sistema completamente compenetrato, dove interessi politici, economici, imprenditoriali, stranieri, locali, indigeni, vecchi e nuovi convivono, e convivono nel reciproco profitto sulla pelle dei lavoratori. Noi così la vediamo, per cui nonostante veniamo da una multinazionale ben diversa da questa, con una forte automazione, con sicuramente un'applicazione del contratto nazionale, alla fine crediamo che stiamo parlando di un unico sistema di sfruttamento e di violenza, dove la violenza non è soltanto la manganellata, dove la violenza non è soltanto il foglio di via, che pure stanno raggiungendo livelli che non si conoscevano da diverso tempo, ma c'è ancora chi va a fare i vertici col ministro Salvini a proposito di questo, non si capisce bene a che titolo, ma è una violenza economica di ricatto fortissimo, perché sappiamo tutti a che livello di ricatto siamo arrivati quando ti dicono: guarda, o fai così o perdi il posto di lavoro. La differenza spesso tra noi e i nostri colleghi immigrati è che paradossalmente, avendo meno da perdere, arrivano a decisioni più radicali prima, paradossalmente. Ma noi siamo nella stessa situazione. La nostra azienda, io non saprei dire se tra 2 anni o 3 anni saremo ancora aperti. So che sicuramente ci illudono di mettere in campo ammortizzatori, interventi pubblici che in realtà semplicemente servono a strangolare lentamente la nostra mobilitazione. E allora ben venga che ci sia solidarietà, anzi scusate se non l'abbiamo portata prima e cercheremo di portarla di più in futuro. Ben venga che ci sia collaborazione tra strutture sindacali diverse che sono colpite come voi dalla repressione, penso ai delegati USB recentemente licenziati che sono già stati nominati prima. Ben venga tutto questo, però credo anche che la solidarietà non possa diventare una notte dove tutte le vacche sono grigie, dove le responsabilità diventano uguali. Io qua sono oggi a parlare, potrei dire una frase sbagliata e domani potrei essere licenziato, poi magari vinco la causa e mi piglio dei soldi, però da quando hanno cancellato l'articolo 18 io non rientro più nel mio posto di lavoro, nemmeno se il giudice lo mi dà ragione. Allora, il sistema di leggi degli ultimi 20 anni, locali, nazionali, sul terreno dell'ordine pubblico, sul terreno del lavoro, sul terreno economico, la quantità di sgravi fiscali che sono stati dati alle aziende, che continuano ad essere dati, scommetto anche a questa, portano una responsabilità che è divisa, direi almeno in parti uguali, tra quello che oggi sono le compagini di governo e quelle che fino a ieri erano al governo e che sono al governo dell'attuale regione toscana e che proveranno a presentarsi in futuro come forze progressiste, non si sa bene su che basi. Noi questo ce lo dobbiamo ricordare sempre, non per una questione di puntigliosità, ma perché, come dire, ben venga la solidarietà, purché non diventi un modo per addormentare le nostre mobilitazioni e per farci scordare questo punto essenziale. Una cosa che mi stupisce, ho finito, qualcuno diceva prima è incredibile quello che fanno le aziende, in realtà io non gli darei più nemmeno la gioia del nostro stupore. Leggi, contratti nazionali, cioè hanno tutto, i contratti nazionali di cui noi spesso chiediamo il rispetto sono contratti nazionali già devastati da deroghe, da peggioramenti e hanno all'interno possibilità di fare quello che vogliono e se non c'è il contratto nazionale c'è l'appalto, c'è il subappalto e se non c'è quello c'è la legislazione che interviene a permettere di fare quello che vogliono, hanno tutto e non gli basta, per cui anche il rispetto della minima regola diventa un problema di destabilizzante per loro. Purtroppo quello di cui ci dobbiamo rendere conto è che il livello di violenza che hanno espresso di fronte a questi picchetti non è casuale, non è un elemento di arretratezza di una questura particolarmente autoritaria, è il sistema per come è di fronte. E chi non subisce questo livello di violenza è solo perché crede di non subirlo, è solo perché non si muove e non sente le proprie catene, subisce altri tipi di violenza, subisce la violenza di andare a casa perché gli finisce il contratto o altri tipi. Questo è il livello di scontro a cui noi ci dobbiamo preparare. Chiunque per me sposti il dibattito sindacale e politico verso altri lidi molto più accomodanti, secondo me ci porta molto lontani dalla realtà, che è quella che voi state testimoniando, non come punta, come dire, di una sacca di illegalità, ma come una punta avanzata di mobilitazione della provincia e nonostante le differenze sindacali che abbiamo, ve ne siamo profondamente grati. Mm. Scusate, volevo ricordare, come giustamente diceva Lorenzo prima, che stiamo effettivamente preparando un crowdfunding soprattutto per i fondi che serviranno per il ricorso al TAR contro i fogli di via, per cui nei prossimi giorni sicuramente lo pubblicizzeremo e saremo contenti se insomma tutti vorrete contribuire in questo senso. Lascio la parola a Hussein, delegato Sicobas SDA, e si prepara Nicola, Potere al Popolo Prato. Buonasera a tutti. Prima di tutto vi ringraziamo, parte di Sicobas, parte di iscritti e delegati di Sicobas. Un applauso a tutti questi che oggi sono partecipati con noi e vostra solidarietà. Veramente ringraziamo, non ci abbiamo parole per vostra solidarietà. Dopo mi inizio da quando Sicobas è iniziato, come è iniziato qua a Toscana. Allora, un anno e mezzo fa quasi, Sicobas è entrato in 2-3 magazzini di logistica tipo TNT, SDA e dopo anche GLS. Perché? Perché loro ce l'avevano già a Bologna, Milano, Torino e anche Roma, già avevano dentro questi magazzini. Noi ha passato parola con diversi modi che c'è Sicobas in questi magazzini, che fa prendere proprio quelli veri dritti, quelli che noi non ce l'avevamo. Avevamo paura di fare anche una malattia, che se uno stava male, perché sapeva che quando mi finisce questa malattia e secondo giorno mi dicano rimani in casa perché è tua colpa che tu hai mandato malattia, tu devi lavorare mentre anche sei malato. Ora, in un anno e mezzo, da quando che Sicobas è dentro questi magazzini di logistica, ha cambiato tante cose, sta prendendo proprio dritti veri. Dopo, come è iniziato quel settore tessile, perché, e anche panificio, perché in questi magazzini erano lavoratori pakistani e bangladesi. È passato parola da noi, questi ragazzi di panificio e anche settore tessile, che maggior parte ci sono pakistani, passato parola a loro che possano lottare, hanno trovato una piattaforma di Sicobas che dove ci possano parlare, dove possono chiedere di loro diritti, e hanno cominciato piano piano a scrivere a Sicobas. Abbiamo iniziato prima a panificio. Prima inizio è stato molto duro, anche ora ancora continua così, però dopo che abbiamo fatto un piccolo intervento dentro a Coop, questa di Ipercoop, questa a Prato, siamo entrati proprio dentro e abbiamo scioperato dentro il Coop, Parco Prato, e per Coop, per questo motivo, per 5 giorni aveva sospeso ordine a panificio. Rimasto 5 giorni chiuso. Dopo hanno sentito che questi Sicobas sta chiedendo dritti di questi lavoratori, che è vero che da alcuni da 15 anni lavorare dentro con livello l'ultimo, con pagamento proprio quella bassissimo, e proprio non lo voleva nemmeno sentire. Almeno dopo di questi 5 giorni hanno cominciato a sentire, però hanno dato parole di dare alcune cose a gennaio, e da gennaio fino ad ora abbiamo aspettati giorni su giorni, niente. E allora abbiamo deciso da stare fuori. Oggi da 8 giorni i ragazzi da 24 ore sono fuori a giorno e notte, in queste piove che ha piovuto questi 2 giorni fa, sono stati tutti qua fuori, vuol dire qualcosa che non va. Questa cosa devono capire a forze di ordine, che vengano quelli che vengano a sgomberare questi ragazzi, questi che vengano a dare pugni di questi lavoratori, questi che vengano a dare a denunce di nostri sindacati e vengano a dare a fogli di via. Allora, piano piano ha cominciato a scriversi, anche come sentendo le cose che abbiamo migliorati, hanno cominciato a scrivere a settore tessile. Abbiamo fatto DL, FADA, ora c'è anche superlativa in corso. Ci sono, però qui mi dispiace una cosa che qualcuno all'inizio ha detto quando siamo entrati al settore tessile, perché era prenditore era cinese e il lavoratore era pakistano. Quelli che prima mi dicevano che voi pakistani siete schiavi di cinesi, dopo hanno cominciato a dire ma guarda che i pakistani forse ce l'hanno qualcosa con i cinesi, ma non è così. Noi siamo lavoratori normali, noi non ci abbiamo con nessuno, però noi allottiamo su piattaforma di Sicobas quello che sfrutta, basta, siamo in contro di loro chi sfrutta, basta, non lo vediamo nessuna nazionalità, che è italiano, che è cinese, anche pakistano, perché qui capo di cooperativa diciamo che è pakistano, anche altra parte è successo così, a Zara era Zara a Reggello, era cooperativa era di pakistano, siamo andati forte contro di lui anche. Non le vuol dire che siamo contro di una nazionalità o qualcosa. Dopo, ora, da un mese e mezzo siamo fuori di Tinto Group, è un'azienda italiana anche. Ragazzi, da un mese e mezzo che sono fuori, quasi una ventina di ragazzi, che manca 3 mesi di stipendio. Non lo vuole pagare, dice andate dove volete andare a denunciare, andate a scriversi dove volete con sindacati, io non vi pago. E stesso superlativa che in inizio quando siamo iniziato a lottare, iniziato a picchetto fuori di superlativa, la polizia è venuto a picchiarsi ai nostri lavoratori. Invece dopo quando è successo il controllo di ispettorato di lavoro e hanno dato ragione a noi che era vero, è tutto nero dentro. E noi aspettiamo vostra solidarietà perché soli no, perché noi anche io ce l'ho diverse denunce perché sto fuori di questi cancelli. Loro danno paura a noi che di queste denunce, forse non mi rinnovano per me stesso giorno, forse qualcosa. Però noi paura abbiamo levato. Perché abbiamo visto che noi non lo chiedendo le cose che no, illegali, noi siamo la strada giusta, loro che devono venire devono capire che siamo la strada giusta e devono dare mano a noi invece che prenditore che ruba da 15 anni un lavoratore lavora in questo fuoco per 5 ore e 50 di gente. Vi ringrazio tutti un'altra volta. Grazie. Scusate se reintervengo un attimo, ma vorrei sottolineare come anche durante l'assemblea la polizia e la Digos decide di venire a controllare. Non si sa bene per quale motivo, dal momento in cui è un'assemblea pubblica e abbiamo qualsiasi diritto di farle parlare di quello che sta succedendo a Prato e di quello che è l'atteggiamento della polizia e delle lotte che stanno facendo questi lavoratori. Nicola, Potere al Popolo Prato, si prepara Luciano, USB Publiacqua. Grazie. Innanzitutto, come mi ha preceduto Lorenzo e tutti gli altri, noi abbiamo diamo la nostra solidarietà a questi lavoratori che hanno avuto un coraggio immenso nel rischiare tutto, perché di fatto vivevano in una condizione di sfruttamento perché necessitavano di un lavoro, come chiunque di noi. Purtroppo dobbiamo mangiare, purtroppo dobbiamo campare dei figli, io no, però tanti sì. E quindi ci facciamo trattare in modi che senza dignità per questi motivi qua. Questi lavoratori hanno avuto tanto coraggio e noi siamo venuti anche sotto la questura insieme a loro, perché come diceva prima bene Sara, li arrestano oltretutto, non solo devono protestare, privarsi di giorni di stipendio, perché ricordiamoci che quando un lavoratore sciopera non viene pagato, quindi quando un lavoratore decide di scioperare decide di non percepire la sua paga a cui avrebbe diritto, perché non vengono rispettate delle condizioni, chiamiamole umane, perché chiamarle di legge ormai non ha più senso, visto che questo sistema che si definisce democratico non ha neanche più ormai non rispetta le leggi che si dà a se stesso, le leggi che vengono date in questo paese, in Europa, che si definisce dove c'è un paese democratico, si definisce la culla della civiltà, ci definiamo il primo mondo, ci diamo delle leggi e poi non le rispettiamo privando della dignità dei lavoratori e delle persone che sono costrette a fare queste cose per poterla riavere. Hanno dimostrato questi lavoratori che la lotta paga, perché quando il datore di lavoro, come viene chiamato oggi, ha paura quando i lavoratori escono fuori e non producono più la ricchezza che a lui serve, perché lui guadagna sulla pelle di questi lavoratori. E mi accodo a quello che diceva Dario prima, questo non è il caso del panificio toscano, non è il caso della tintoria Fada, questo è il caso di un sistema che è marcio dalle fondamenta, che si basa su queste regole, si basa alle fondamenta sullo sfruttamento del lavoro. È questo che dobbiamo capire, perché oggi tocca al panificio toscano, oggi Hussein l'ha detto, oggi tocca ai pakistani. Non è una questione di pakistani, non è una questione dell'imprenditore italiano, l'imprenditore cinese, l'imprenditore pakistano, ha fatto bene a dirlo che c'era anche il capo della cooperativa pakistano. Questa è una questione che riguarda tutti, qui chi lavora viene sfruttato, punto. E noi dobbiamo combattere contro questa cosa, perché ci hanno dimostrato questi lavoratori che combattendo qualche cosa si ottiene, seppur il minimo indispensabile. Perché questo stiamo parlando, il minimo indispensabile. La legge che viene data non viene rispettata e le persone devono scioperare, farsi arrestare, farsi controllare dalla polizia mentre parlano. Perché? Perché vogliono lavorare 8 ore nel 2019? Stiamo parlando di questo. Noi a Prato, Hussein è già stato al circolo da noi. Se fanno questo crowdfunding, se fanno questa cassa di resistenza, noi ci siamo, noi ci stiamo, faremo tutto il possibile per quello che possiamo. Al circolo dove noi facciamo militanza, al circolo Ballerini a Mezzana, siete benvenuti, venite quando vi pare, facciamo una cena, facciamo quello che volete, un'iniziativa l'abbiamo già fatta con Hussein che è venuto. Quindi questa cosa deve diventare, la dobbiamo far uscire dallo schema che ci vogliono far credere, che questo è il panificio toscano, allora va bene, una volta che abbiamo rimesso un pochino a posto qui siamo tutti più tranquilli. No, perché domani tocca a qualcun altro, per qualcun altro domani posso essere io. Quindi cominciamo a lavorare su queste cose, perché purtroppo ci serviranno. Basta. Luciano, USB Publiacqua, si prepara Edoardo, Confederazione Cobas Poste. Vi ringrazio. Solidarietà, fratellanza, connettere le lotte, basta repressione, diritti e salario, basta licenziamenti politici, colpirne uno per colpirne tutti. Ve lo dico come delegato dell'RSU di Publiacqua, che anche noi stiamo vivendo ore di difficoltà per il licenziamento di una delegata sindacale da poche ore eletta nell'RSU di Publiacqua, insieme a un'altra donna, l'uniche delegate in RSU. Dania aveva un problema, ha vissuto l'intossicazione dei colleghi al potabilizzatore dell'Anconella, dove si produce l'acqua con la chimica spinta, si è manifestata sulla sua pagina Facebook, l'azienda l'ha intercettata e l'ha licenziata in tronco, ritirandogli il badge e mettendogli uno scatolone in mano. Questo fa capire la necessità e il clima che va anche oltre i cancelli di questo panificio toscano. È un clima che tutti insieme dobbiamo respingere, ed ecco perché usavo la parola connettere le nostre lotte. 48 ore prima del licenziamento da parte dei vertici di Publiacqua, che ricordo al 60% è di proprietà dei 47 comuni serviti, quindi compreso il comune di Firenze, Prato, Pistoia, e quindi mi rivolgo anche a Biffoni, mi rivolgo a Nardella, al sindaco di Pistoia e tutti gli altri sindaci, hanno fatto questa scelta di colpirne uno per educarne tanti. Ma noi 48 ore prima abbiamo avuto licenziata anche la nostra delegata all'Unicop di Montevarchi. Anche questa delegata aveva un grande torto, aver vinto troppe cause in tribunale contro l'Unicop, e quindi per quanto riguarda l'Unicop con noi sfondate una porta aperta. Vi devo confessare una pecca che ho come attivista sindacale. Sono socio della COP a Certaldo, dove vivo, ma insieme alla mia famiglia abbiamo deciso, come piccolo atto, e l'abbiamo comunicato alla sezione soci, noi non stiamo più facendo spesa alla COP finché la COP non mette fine a questa mistificazione con i suoi fornitori e con i dirigenti delle proprie realtà e dei propri grandi ipercop e punti vendita. Ora qui vi dico una cosa a voce alta, e lo dico anche ai miei fratelli che hanno come me il sangue rosso nelle vene e hanno lo stesso diritto di costruirsi in questo paese un progetto di vita per sé e per la propria famiglia. Domani noi avremo una riunione per la vertenza e i licenziamenti politici in Publiacqua. Io proporrò alla federazione dell'unione sindacale di base di connettersi con le altre organizzazioni in lotta e, se condiviso, creare un percorso preparato bene di sciopero generale, perché su queste questioni il movimento operaio ha già pagato costi enormi per il diritto di coalizzarsi per poi arrivare fino al 1970 allo Statuto dei lavoratori, e in quei 20 anni ci hanno licenziato 120.000 delegati sindacali. Non dimentichiamolo mai, e non dimentichiamo chi oggi anche dai palchi del centro-sinistra ha distrutto pezzi interi di quelle conquiste costate lacrime e sangue. Noi ci saremo, però dobbiamo uscire ognuno dalla vertenza legittima, sacrosanta, dai propri cancelli, incominciarci a mischiare insieme, creare solidarietà vera e capacità di mobilitazione comune. Edoardo, Confederazione Cobas Poste, dopo interverrà Luca Toscano del Sicobas di ritorno dal tavolo col panificio, che ci aggiornerà. Io ho la caratteristica di essere anche molto breve, forse oggi lo sarò ancora di più perché quello che volevo dire l'hanno già detto praticamente tutti, specialmente anche, non per fare nessun elogio o sminuire gli altri, ma Luciano che mi ha preceduto ha detto delle cose secondo me molto importanti. Tengo a sottolineare una cosa che almeno per me, ma credo per tutti quelli che sono presenti, siano essi pakistani, italiani o di altri paesi, essere qui oggi è un atto dovuto, perché ci sono a mio avviso due segnali che vengono fuori da questa vertenza, da questa lotta. Un segnale è la solidarietà verso chi sta portando avanti questa lotta, che è estremamente importante. Forse, come qualcuno ha sottolineato, forse siamo anche in ritardo nel dare solidarietà, e non è che con la presenza di oggi pensiamo di doversi mettere con la coscienza a posto, perché sicuramente dovremo continuare a dare segnali di solidarietà con la cassa di solidarietà, con quello che verrà deciso di fare. Ma l'altro segnale importante a mio avviso è che con questa vertenza e con le vertenze precedenti si sta dimostrando una cosa essenziale: che si può provare e si può osare a lottare. E è assolutamente sbagliata la logica invece del compromesso, la logica del stare buoni e vedere se poi tutto si sistema. Invece no, la mobilitazione, come viene portata avanti in queste settimane, è importante. È importante che le vertenze siano sostenute dai lavoratori. Non ci devono essere i burocrati sindacali che vanno a trattare a nome di qualcuno. Le trattative è normale che ci siano, ma devono essere sostenute dai lavoratori. Io sono un delegato RSU della Confederazione Cobas alle Poste e posso dire e confermo quello che ha detto Luciano, che la repressione e i provvedimenti disciplinari sono presenti anche in tante altre aziende. Alle Poste è un susseguirsi di provvedimenti disciplinari, di provvedimenti, di richiami, perché i comportamenti tenuti dai lavoratori non sono in linea con quello che vorrebbe l'azienda. È un continuo, purtroppo, delegare alle questioni, diciamo, a ricorrere all'avvocato, quando invece sarebbe opportuno e giusto che, oltre a quello, perché è giusto anche ci sia l'apporto dello studio legale, che fossero i lavoratori a farsi carico delle proteste sindacali, quando invece purtroppo siamo obbligati sempre a ricorrere all'avvocato. Io faccio parte con altri lavoratori di un percorso minimale che non si sa ancora fino a quanto può essere da esempio e quanto ce la può fare. È un percorso che segue alcune indicazioni che sono state dette prima, cioè di unire le lotte, perché in questo periodo abbiamo, in questo momento forse sempre, ma in questo momento ancora di più perché c'è un attacco padronale fortissimo, abbiamo bisogno di superare gli steccati di appartenenza. Fa piacere che oggi ci siano compagni, al di là che siano compagni conosciuti della FIOM, dell'USB, io sono della Confederazione Copas, questa è un'avvertenza che porta avanti il SICOPAS, ma questo non deve significare differenze o ostilità o addirittura menefreghismo. È importante che ci sia una solidarietà al di là delle sigle d'appartenenza. L'accenno che ho fatto, appunto, c'è in piedi un coordinamento cosiddetto e chiamato di autoconvocati, di lavoratori che appartengono a tutte le sigle sindacali, anche all'opposizione in CGL, per far sì che questa frammentazione con il tempo necessario che ci dovrà essere venga superata, e non tanto per un'unità per un superamento delle sigle di appartenenza. Ognuno può rimanere benissimo nella propria realtà sindacale, l'importante è, come diceva Luciano, connettere, unire le lotte, perché uniti si vince, frammentati non voglio dire che si perde, ma quasi sicuramente si perde. Quindi massima solidarietà a questa avvertenza e il richiamo all'unità delle lotte, per cui anche raccolgo con entusiasmo e con piacere la proposta di arrivare a una mobilitazione in questa città a difesa delle vertenze in corso e contro i licenziamenti politici, perché, e con questo concludo, perché parlare di licenziamenti politici può sembrare parlare di qualcosa di vecchio, come le vertenze vengano portate avanti ora, ma purtroppo non è così. L'attacco a Luca e a Sara che viene portato con i fogli di via, il licenziamento della delegata di Publiaca dell'USB, sono licenziamenti politici e come tali vanno affrontati. Grazie. Luca Toscano, SICOPAS, Firenze Prato. Allora, ciao a tutti, come prima cosa voglio ringraziare tutti e tutte che sono qui oggi. Per noi è qualcosa di davvero molto importante questa assemblea, molto importante che ci siano persone delle istituzioni, persone del mondo politico, del mondo sindacale e della città. Ed è importante anche che siano qui, davanti a questa industria, perché per noi è un'industria, dove sono accadute cose che non dovrebbero accadere nel 2019 in Italia. Io sono di rientro insieme a Riaz, che è il delegato dei lavoratori del panificio, dal tavolo in prefettura, quindi immagino che debba fare anche un report di come è andata. È andata come sempre. Questo tavolo ci veniva richiesto di firmare un non accordo, firmare un rinvio ulteriore della questione, rinviare a settembre questa volta la questione. Siamo di fronte a una vertenza che è iniziata a luglio dell'anno scorso. Come organizzazione SICOPAS, in realtà i lavoratori hanno iniziato con un'altra sigla a dicembre dell'anno precedente ancora, e eravamo in prefettura a luglio e veniva rinviato, eravamo a dicembre in prefettura e veniva rinviato. In tutti questi mesi noi non abbiamo visto un miglioramento nelle condizioni dei lavoratori, ma non abbiamo mai nemmeno incontrato Panificio Toscano, che puntualmente ogni volta dopo gli impegni in prefettura scappava. E allora noi oggi non potevamo firmare un'altra volta un impegno a sospendere questa lotta in attesa di un'altra presa in giro, perché così vanno ormai nominate le cose col nome che hanno. Il problema continua a essere lo stesso, di cui immagino che molti interventi che non ho potuto ascoltare hanno già parlato, cioè che anche per la prefettura il problema da risolvere al tavolo di oggi eravamo noi. Il problema da risolvere era come mandare via questi 28 lavoratori che con delle tende, con un gazebo, con tre bandiere sgangherate stanno facendo uscire fuori la realtà che c'è lì di fronte. Stanno dicendo che dietro quel mondo dell'Unicop, dell'imprenditoria buona e sana, c'è qualcosa di diverso da quello che leggiamo nelle brochure, nei manifesti, negli informatori, eccetera, eccetera. Questo era il problema da risolvere, non era un altro. L'azienda non ha voluto trattare su niente. Noi abbiamo messo una condizione semplice, abbiamo detto va bene, apriamo un percorso, però questa volta diamo un segnale a questi lavoratori che questo percorso si vuole fare davvero. Qui ci sono lavoratori che lavorano da 10-15 anni, che gestiscono da soli le linee di produzione. Cosa vuol dire? Non voglio entrare nel tecnico, ma vuol dire che fanno l'impasto, che lo spezzano, che lo fanno lievitare, che lo infornano, che lo sfornano. Tutto quanto fanno. E oggi questi lavoratori sono considerati lavoratori comuni, ultimo livello, appena entrati, non sanno fare un cazzo, scusate il termine. E ricevono 1.250 euro lordi al mese, vuol dire meno di 1.000 euro al mese. Abbiamo chiesto, vediamoci a settembre per discutere degli inquadramenti, però almeno facciamo un passaggio dall'ultimo al penultimo livello, diamo una risposta anche di dignità a chi da 15 anni ha sudato dentro questo forno e continua a essere considerato uno che non sa fare niente. Uno che non, come se non avesse sudato e spaccato la schiena e avuto anche gli infortuni dentro questo panificio. La risposta è stata no. Allora, sono tante le cose da dire e mi agito anche un po'. Noi questa battaglia ovviamente non la finiamo, non la concludiamo qui. Siamo abituati in realtà, anche con molta serenità noi vediamo quello che è successo oggi, perché è già successo tante volte. In questi giorni, in queste settimane, sui giornali sono in tanti che cercano di dire che questa protesta è strumentale. Lo diranno anche domani, a maggior ragione, perché non abbiamo voluto aprire un percorso nuovo di dialogo. Lo dicevano che era strumentale quando noi la prima volta venivamo a questi cancelli, a luglio del 2018, e dicevamo che qui dentro c'erano cooperative finte, che venivano create e distrutte ad arte, per risparmiare, per non pagare tasse, e soprattutto per sparire con i soldi dei lavoratori, perché la cooperativa fallisce, se ne va col TFR, se ne va con la tredicesima, se ne va con tre mensilità. Eravamo strumentali all'epoca. Però la procura di Firenze qualche giorno dopo apriva un'inchiesta. Dopo qualche giorno i lavoratori venivano assunti qui dentro. E allora questi 28 lavoratori hanno avuto prima di tutto questo merito qui. Ma non solo, perché ci veniva detto che era strumentale le nostre proteste quando dicevamo che non si poteva applicare qui dentro un contratto da multiservizi con mansione da addetto alla pulizia a chi fa il pane. E ci veniva risposto che invece è legittimo, perché c'è la libera contrattazione, perché ognuno è libero di scegliere quale contratto nazionale può utilizzare. Bene, se oggi non c'è più i contratti multiservizi qui dentro, è grazie sempre a questi lavoratori che sono stati offesi anche, come continuano a essere offesi e continueranno a essere offesi domani, quando purtroppo anche altre organizzazioni sindacali diranno che stanno dormendo qui da 7, 8, 9 giorni, non lo ricordo, senza un motivo, così, per divertimento. Allora, noi sentivo prima parlare di cause in tribunale, di divertenze che si svolgono in questo modo. Anche oggi c'è stato detto a questa cosa al tavolo, ci ha detto ma perché non andate, no perché non, in maniera un po' più brusca anche, se c'è qualche problema andate in tribunale. Noi ci siamo andati in tribunale con i lavoratori di Panificio Toscano quando venivano licenziati a luglio due delegati sindacali. Uno aveva rilasciato un'intervista in cui aveva affermato né più né meno che quello che aveva, che poi qualche settimana dopo scopriva anche la procura di Firenze, licenziato. Un altro per delle lettere di contestazione disciplinare per fatti completamente inventati. Quella causa è stata vinta dai lavoratori, ma questi lavoratori non possono più lavorare qui dentro lo stesso. Dopo 12 mesi un lavoratore ha visto riconosciute 6 mensilità. Aveva ragione, non doveva essere licenziato, ma dopo 12 mesi ha avuto 6 mensilità riconosciute e nessun diritto al reintegro all'interno dell'azienda. Per cui è chiaro che continua a esserci sempre solo un modo, solo e soltanto un modo per far valere questi diritti che sono minimi, quelli di cui qui, come davanti a Superlativa, davanti agli altri magazzini, cancelli di altri magazzini e fabbriche di questo territorio, i lavoratori stanno richiedendo, che è quello dello sciopero, dell'organizzazione sindacale, dell'avvertenza, della trattativa anche, che è tutto quello che oggi si cerca di offendere da una parte, di ridicolizzare, di dire che si fa per divertimento, senza motivi, e dall'altra di criminalizzare. Oggi al tavolo è uscito un'altra questione, che è quella del diritto o non diritto di un sindacato come il SICOBAS di portare avanti delle trattative sindacali. Che questo discorso abbia diritto di cittadinanza in una prefettura io penso sia anche abbastanza grave in se stesso, nel senso che insieme, se lo mettiamo insieme ai fogli di via, se lo mettiamo insieme alle scene che abbiamo visto anche davanti a questo panificio, per immobilizzati, pugni da parte di agenti di polizia alla testa, penso che ricostruiamo un quadro su cui appunto è importante che oggi inizia a esserci una risposta comune, anche nelle differenze. Da che parte stare? Io credo sia questo la domanda che tutti ci siamo posti se poi ci siamo ritrovati qui. Noi sappiamo che c'è tanta parte di città che non è qui oggi, ma che sta dalla parte dei lavoratori, perché magari sono lavoratori loro stessi, perché sanno qual è la realtà che si vive oggi purtroppo nei posti di lavoro, nella maggioranza dei posti di lavoro. Lo sappiamo perché quando passano qui applaudono, perché ci portano l'acqua, perché ci solidarizzano in tante maniere. Questa cosa deve essere resa però anche evidente, esplicita, come responsabilità di tutte le realtà di ogni tipo di questo territorio. Io spero che a questi cancelli tutti quanti torneranno in un modo o in un altro, perché questa battaglia andrà avanti, ma spero soprattutto che ci sia il sostegno anche a partire dalla giornata di sabato prossimo, in cui bisogna andare a segnalare delle responsabilità che ci sono da parte di Unicoop all'interno di tutta questa vicenda. Spero che ci sia un messaggio che va a tutti, che vada a chi in questo momento vuole appunto vedere come il problema al di qua del marciapiede invece che al di là del marciapiede, quindi nelle iniziative dei lavoratori e non nella negazione dei diritti che avviene tutti i giorni all'interno di questo come di tantissimi altri magazzini, ma anche un messaggio penso anche a tutti gli altri lavoratori, a tutti gli altri cittadini che forse ci avevano raccontato che non si poteva più fare niente, ma forse in realtà qualcosa si può fare. Si tratta di andare avanti mentre ci ridicolizzano, ci offendono, ci picchiano. Questo lo stiamo facendo, penso sia un merito di tutti i lavoratori che hanno e stanno portando avanti questa battaglia. Io per ora mi chiudo qui questo intervento e ringrazio davvero tutti quanti per essere qui. Lasciamo ora il microfono aperto a chiunque voglia intervenire. Prego. Sì, io come diceva prima qualcun altro, sì, non ho potuto fare a meno, appunto vengo da Lucca, non solo a portare la solidarietà ai lavoratori in lotta, ma cercare anche di cercare di dare un contributo per una prospettiva di questa lotta. Però ho bisogno di fare una domanda prima, perché io non lo so. I lavoratori qua sono tutti in lotta? Cioè state mobilitando tutti i lavoratori? Tutti i lavoratori del panificio? Del panificio, no, solo gli iscritti. Solo gli iscritti. Poi, l'altra domanda è, perché mi è stato detto, mi sembra da te compagna, scusa non so il tuo nome. Francesca. So che Panificio Toscano ha almeno un altro stabilimento, se non altri due. Un altro. Colle Salvetti. La domanda è, il rapporto con questi lavoratori come sta? Cioè, questi lavoratori, in qualche modo... Ci c'è un lavoratori anche di Livorno. Ecco, quindi c'è un contatto... Sciopero anche loro. Sono in sciopero, ma quelli solo gli iscritti al SICOPAS? Sì, ok, no, tanto per avere chiaro, il perché la proposta che io mi sentirei di fare è questa: siccome vari interventi di vari lavoratori, vari compagni, quello di cercare di ovviamente di non farci chiudere in noi stessi, è di tentare di organizzare un'altra assemblea, cioè questo di qui a una settimana, i tempi le deciderà il SICOPAS, le deciderete voi nella vostra autonomia, la tempistica, tutto quello che volete, però tentare di organizzare un'altra assemblea più allargata, nel cercare di coinvolgere più lavoratori innanzitutto del panificio qui, e del panificio toscano di Colle Salvetti. Cioè il primo obiettivo è cercare di coinvolgere gli altri lavoratori dei panifici, ovviamente cercando nel frattempo di guardare oltre. Quindi bisogna superare questa difficoltà, per cui magari da qui ci mobilitiamo anche da tutta la Toscana, però poi c'è la difficoltà di coinvolgere gli altri lavoratori dei panifici. Quindi il primo sforzo, il primo compito, perché il pericolo che io vedo, ve lo dico sulla base di esperienza, è che in qualche modo stanno già, ovviamente, con tutto quello che già i compagni, i lavoratori ci hanno già detto, però cercheranno di trovare l'asso nella manica per cercare di isolare, no, i lavoratori, sia con le buone e sia con le cattive. Quindi il primo compito... su cui, ecco, tutti noi, cioè per quello che possiamo, quindi casse di resistenza va benissimo, però cercare il lavoro, il volantinaggio, perché sì, andiamo a volantinare dove vogliamo, però l'obiettivo primario è cercare appunto di rafforzare la mobilitazione dei lavoratori del panificio toscano, perché è una lotta che riguarda tutti i lavoratori, innanzitutto il panificio toscano. E poi ovviamente è una lotta che riguarda tutti i lavoratori, a prescindere dalla nazionalità, dal settore, eccetera, perché come diceva, e qui chiudo, come diceva qualcuno, questa non è l'eccezione, questa è la regola. Allora, se questa è la regola, se questo è la regola, dal punto di vista dei padroni, la regola del passato, dal nostro punto di vista, io qui ci vedo il futuro, perché questa è un'assemblea già per la composizione. 10 anni fa ce la sognavamo un'assemblea dove lavoratori italiani, lavoratori pakistani, lavoratori di tutte le nazionalità si ritrovavano in un'assemblea a discutere insieme, darci una prospettiva di lotta contro lo sfruttamento dei padroni, lo sfruttamento capitalistico. Quindi compagni, dobbiamo avere chiaro che qui c'è il futuro. E allora il primo compito è quello di rapportarsi con, io non so se gli altri lavoratori sono anche lavoratori immigrati o sono lavoratori italiani. Superare anche questa spaccatura per cui si determina che perché il SICOPAS organizza lavoratori immigrati e poi i lavoratori italiani organizzano le altre organizzazioni sindacali. Quindi la proposta è tentare una nuova assemblea, una, due, tre, lo decidete voi il tempo. Prepararla per arrivarci a un'assemblea molto più numerosa, tanto per mantenere il ferro caldo. e cercare di allargare la lotta per il più possibile. Grazie. Una cosa che è stata detta oggi, che secondo me è fondamentale, è che ci sono due tipi di persone, gli sfruttati e gli sfruttatori. Non ci sono altri, c'è la classe degli sfruttati e la classe degli sfruttatori. Noi dobbiamo unificare la classe degli sfruttatori, non pensare agli interessi degli sfruttati. Quelli sono già organizzati ampiamente. Noi dobbiamo concentrarci su questo. Ci dividono i padroni, ci dividono per nazionalità, per sesso, per colore della pelle e anche per sigle sindacali. Noi dobbiamo invertire questa tendenza e unificare le lotte e unificare i lavoratori sul base degli sfruttati contro gli sfruttatori. I lavoratori, i compagni chiedono solidarietà. Io chiedo a loro di spingere perché non pensino che i lavoratori italiani siano indifferenti o si sentono tranquilli e rassicurati. Certamente siamo privilegiati rispetto a chi, oltre a perdere il posto di lavoro, rischia di perdere anche la possibilità di stare in questo paese. Però potete essere voi, al di là delle sigle sindacali, a spingerci, a chiamarci, a coinvolgerci nelle vostre lotte, che sono le nostre, perché i motivi per cui è stato licenziato il compagno che diceva prima Luca è lo stesso per cui vengono licenziati i nostri. Noi dobbiamo superare, capire, tornare all'unità di classe contro i padroni che sono tutto, fanno le leggi, fanno i regolamenti, decidono quali sono i sindacati con cui possono parlare, lo decidono loro attraverso il testo unico sulla rappresentanza. Confindustria, CGIL e CISL UIL hanno deciso chi sono i rappresentanti, ma sono i padroni a decidere chi li rappresenta. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, tornare a parlare ai lavoratori. E allora ci sono lavoratori, ci sono vertenze, non so se i compagni lo sanno, ma c'è una vertenza alla PAM, ci sono vertenze all'Unicop, e queste noi dobbiamo parlare. Al di là, qualcuno ha detto prima, vedremo la federazione se fa, ma noi non ce ne fotte una minchia di quello che dice la federazione o i dirigenti sindacali. Noi abbiamo una possibilità, parlare ai lavoratori, al loro cuore e al loro portafoglio, alla loro possibilità di vita. Questo è il nostro compito. I sindacati, che si definiscono di classe, decideranno se e con che classe stare. I sindacati ci verranno dietro, così le istituzioni, le forze politiche. Noi non ci dobbiamo affidare alle forze politiche, noi dobbiamo costringere con la nostra lotta a far sì che le forze politiche si sveglino, decidano da che parte stare, non vengano a chiederci soltanto i voti, ma partecipino, si mettono al servizio della nostra classe. Io credo che di qui si possa partire per fare un ragionamento di unità che superi le divisioni che ci sono e che vada a parlare direttamente. Quindi andiamo, chiamateci, e evidentemente l'auto referenzialità, cioè pensare di essere da soli a poter vincere, è una strada che ci porta alla sconfitta. La divisione delle lotte in aziende, in aziendine o in piccoli territori ci porta alla sconfitta. Noi dobbiamo unificare queste lotte, unificare questi interessi. Il nostro interesse è contro il padrone e il padrone è contro di noi. E con il padrone c'è tutto, lo Stato, le leggi, la polizia. Certamente sono una forza enorme. Noi dobbiamo lottare contro tutta questa parte. Ma noi siamo anche quelli che se ci fermiamo, e questo va fatto capire agli italiani e anche agli stranieri, che quando noi ci fermiamo si ferma tutto. Non c'è più il pane se riusciamo a bloccare questo cazzo di stabilimento che è a farlo. Lo devono capire anche quelli che a destra lavorano, convinti di difendere il loro posto. Noi dobbiamo tentare di convincerli a partecipare a questa lotta. Se noi ci fermiamo, si ferma tutto, la produzione, i trasporti, i servizi. Noi siamo quello che fa andare avanti questo paese, noi siamo anche quelli che li mantengono i parlamentari, mantengono le istituzioni, mantengono le pensioni, perché col nostro lavoro paghiamo, noi unici paghiamo le tasse che vengono poi utilizzate contro loro. Allora, contro di noi. Allora dico questo perché dobbiamo tentare di andare oltre alle dichiarazioni di semplice solidarietà e tentare di organizzare i lavoratori là dove ci sono, là dove lottano, e unificare queste lotte, unificarle su un piano di classe. Ciao a tutti, io sono Aida del Collettivo Universitario Autonomo di Firenze e sono qui stasera, credo come molti di noi, a esprimere prima di tutto un grosso grazie a questi lavoratori. Grazie perché quello che loro hanno fatto deve essere per tutti noi un esempio di coraggio, di capacità di mettere via la paura che c'è per tutti noi quando si tratta di volersi ribellare a delle condizioni di sfruttamento nel proprio posto di lavoro o a delle politiche, a delle istituzioni che decidono sulle nostre teste e vanno contro il nostro futuro, le nostre possibilità di andare avanti, la nostra possibilità di avere dei progetti. Ecco, questi lavoratori l'hanno fatto in maniera forte, in maniera chiara, rischiando il proprio posto di lavoro, rischiando e mettendo a repentaglio anche la propria libertà, come ci viene raccontato, rischiando i propri documenti, il permesso di soggiorno, quindi mettendo anche in discussione quel ricatto del documento che fa sì che solitamente i lavoratori stranieri abbiano più difficoltà a ribellarsi. Ebbene, loro ci stanno dimostrando che non è vero, che si può fare con coraggio e ponendo anche delle rigidità, non accontentandosi, appunto, come ci viene raccontato, di tavoli in cui si viene presi in giro, in cui vengono date false promesse. Ce lo stanno dimostrando, ci stanno dimostrando come la solidarietà si manifesta prima di tutto davanti ai cancelli, davanti ai cancelli l'uno dell'altro, del posto di lavoro l'uno dell'altro, e quindi i lavoratori delle tintorie, del settore tessile vengono a protestare, vengono davanti a questi cancelli a prendersi le manganellate dalla polizia, a essere arrestati, presi a pugni in faccia accanto ai loro compagni lavoratori che lavorano al panificio. Ecco, noi come studenti, come universitari, appena abbiamo saputo di queste lotte abbiamo pensato, come è già stato detto prima di me, che queste lotte parlano a tutti. È evidente, anche noi giovani sappiamo bene cosa significa lavorare a nero, avere dei lavori precari, non avere un futuro, non avere delle possibilità economiche per poter andare avanti. situazioni diverse, posti di lavoro diversi, però le condizioni sono quelle, sono appunto quelle dello sfruttamento più totale. E quindi per noi è stato abbastanza, come dire, naturale venire il più possibile a sostenere queste lotte, venire al loro fianco, a lottare al loro fianco davanti a questi cancelli, proprio perché pensiamo che questa lotta sia anche la nostra lotta e che appunto ci dia un esempio di possibilità. Quindi niente, non aggiungo molto a quello che è stato detto, però appunto ci tenevo a precisare questo, che dobbiamo prima di tutto ringraziare e, come dire, prendere da esempio queste lotte e queste rigidità che questi lavoratori hanno posto ai loro padroni. Abbiamo scelto, stando dalla loro parte, di fatto da che parte stare. Anche questo è stato detto più volte e credo che sempre di più in questo paese si stia, come dire, si stiano delineando queste due parti. Vediamo da una parte appunto i padroni che sfruttano e che hanno dalla loro parte le istituzioni, le leggi che vengono imposte, che hanno dalla loro parte le questure. E dall'altra parte appunto c'è chi è sfruttato, c'è chi non riesce ad andare avanti, c'è chi non è capace, non può pensare a un futuro. Credo che noi giovani in qualche modo ci stiamo iniziando a schierare da questa parte. Proprio recentemente, la settimana scorsa o due forse, due ragazzi di Firenze sono stati sottoposti a misure cautelari per aver partecipato alle manifestazioni contro il G7 di Torino un paio di anni fa, insieme ad altri ragazzi di Torino. Ecco, questi ragazzi pure perché erano lì? Erano lì a protestare contro i padroni della terra, contro tutti coloro che ci impongono delle politiche che sono volte al nostro sfruttamento, al nostro dividerci gli uni con gli altri, al razzismo. Questi ragazzi non ci stanno, non ci sono stati e per questo pagano, così come gli operai, i sindacalisti, i Sicobas pagano. Ma l'esempio è quello proprio di non avere paura, di rimanere tutti uniti, solidali in queste lotte e continuarle fino in fondo, portarle fino in fondo, perché alla fine l'abbiamo visto in tante situazioni, grazie appunto alle battaglie dure del Sicobas, la lotta paga. Quindi noi continuiamo ad esserci, ci saremo sempre ai cancelli piuttosto che alle COP, crediamo che possa essere un modo per tutti e tutte noi di partecipare attivamente a questa lotta, con una solidarietà reale, con una presenza attiva in questa lotta qui. Se non ci sono altri interventi, volevo ringraziare ancora tutte le persone che sono intervenute qui oggi e ribadire ancora una volta quanto questo sia importante per le persone che sono in lotta qui, ma anche in altre ditte. Rinnovo l'invito alla mobilitazione questo sabato alle COP. Noi faremo anche una chiamata pubblica e ci organizzeremo il prima possibile per diffondere quanto si può anche in tutta la regione toscana, per cercare di mobilitare le persone, andare davanti alla COP per chiedere risposte su quello che sta succedendo, per far capire che le responsabilità non sono uniche, le responsabilità sono anche di chi fa delle dichiarazioni, di chi compra quel pane e chi continua a non voler ascoltare i lavoratori. Io vi ringrazio, rinnovo l'invito anche a farci, a venire a trovarci. Noi continuiamo a essere qui davanti al panificio, dormiamo qui, siamo qui tutto il giorno, per cui se volete venire a trovarci siete ben accetti. E concludo la io l'ho fatto, forse qualcun altro. Scriviamo alla Coop. Comunica Coop, adesso non mi ricordo, si trova facilmente sul sito. Io ho già scritto, la prima volta che scrissi mi telefonarono. Mi telefonarono: signora, ma come, che cosa dice? Noi siamo dalla parte dei lavoratori, si è visto. Dopodiché non mi hanno risposto più, perché io scrivo continuamente, quindi secondo me non le leggono manco più. Però ha funzionato quando fu sospesa la commessa, arrivarono tante mail, forse sono servite. Facciamolo, siamo sempre al PC, scriviamo: ma da che parte sei? Da che parte stai, Coop? Io ho scritto: la Coop non sono più io, punto, basta. Fino adesso lo potevo dire, io 13 anni ho speso tutto il mio stipendio alla Coop. E devo dire che ultimamente mi è capitato solo una volta ad andarci e sono passata all'estemunga. Almeno non fa tutta sta retorica, tutta sta falsa, è meno ipocrita, almeno non dice niente, pace. Invece la Coop sta sempre a dire, no? Che è brava, è buona, e non lo è. È solo ipocrita. Basta, questo volevo dire. Scrivete alla Coop. Grazie ancora a tutte e tutti.